Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Questa mattina vorrei parlare di cocaina, un argomento che abbiamo già toccato più volte, un argomento di stringente attualità, ma lo è da tanti anni. Lo è perché dopo i vari passaggi, le varie definizioni, i vari flussi e di frequentazione, almeno nel nostro paese, di sostanze stupefacenti, oggi sembra attestato che la cocaina faccia parte del vivere comune. Non sto nemmeno a citare le cifre, la cosa che mi fa riflettere è che in termini di consumo sembra che sia superato quelle che sono le stime della produzione, cioè se ne consuma più di quanta se ne produca, quindi c'è qualcosa che non funziona. Evidentemente ci sono dei luoghi di produzione che noi non conosciamo, che vanno oltre quelli canonici, e che evidentemente questa sostanza, di cui spesso le cronache come facezia riportano la densità altissima nelle acque dei nostri fiumi, nel Po ci sono 4 kg di cocaina a testa per ogni, non so, adesso questo non è esattamente la cifra, in realtà sono 500 grammi a testa per ogni persona attraversata da quel fiume, via dicendo. Ma se nelle acque dei fiumi c'è un tasso così alto di cocaina, si vede tante persone che sniffano cocaina, poi fanno la pipì nei loro vasetti e poi questa va a finire nei fiumi, poi evidentemente ormai fa parte degli elementi costitutivi della nostra natura. Ma la cosa che mi sorprende è che poi, se dico la parola cocaina, ho provato questa mattina a scriverla sul profilo Facebook, si danno tutti di gomito, fanno le battutine, chi cita il cartone animato, chi cita Vasco Rossi, chi mi dice sì, di buona mattina, va bene prendere la cocaina e via dicendo. C'è una sorta di imbarazzo, come i bambini quando qualcuno dice qualche parolaccia, fa una puzzetta, che dimostra che in realtà tutti sono complici, tutti ne sanno qualcosa. Beh, questa mattina quello che mi piacerebbe sapere dal mio pubblico, non voglio confessi che raccontano la loro vicenda, la loro storia drammatica di cocaina, se volete chiamate anche per raccontare la vostra storia, ma non vi chiedo tanto. Piacerebbe condividere con voi questa percezione che ormai sia un fenomeno che faccia parte del consumo, del costume generale. Non è più la droga dei ricchi, l'abbiamo già detto e stradetto nelle varie puntate precedenti, è la droga di tutti, è la droga del sabato sera. Oggi è lunedì mattina, quanti questa mattina andranno in ufficio, porteranno i loro figli a scuola, gireranno per le città con i motorini e si saranno fatti la loro botta di coca di fine settimana. Quanti inizieranno la giornata facendosela, perché probabilmente è la maniera migliore per iniziare le loro attività sociali. Quanti motteggiano, ironizzano, scherzano. Ho visto signore per benissimo nelle boutique tirare fuori le carte di credito e poi guardarsi con aria complice e dire ma questa è meglio che non la uso, l'ho appena usata, e cambiare la carta, facendo credere, immaginare, supporre, come se fosse la più grande delle paraculate, che con quella carta hanno appena fatto e spezzettato le pistine. Beh, vorrei questa mattina avere da voi, potete chiamare come sempre all'800 24 0024, una testimonianza di percezione generale della normalità dell'uso di questa sostanza, e nel frattempo vi racconteremo un po' quello che è divertente, per modo di dire, interessante e utile sapere su questa sorta di singolare percorso che da molto lontano, anche da molto vicino, fa sì che questa sostanza così comune, come se fosse il sale da cucina, arriva anche a lambire quelle che sono le nostre conoscenze più prossime o, in alcuni casi, anche le nostre persone. I clan Mirta Strangio di San Luca e Bellocco di Rosarno si erano coalizzati per scambiarsi supporto logistico al fine di nascondere reciprocamente i latitanti e in particolare acquistare e smerciare cocaina. Sul mercato statunitense avrebbero potuto fruttare oltre $1 miliardo le 8 tonnellate di cocaina sequestrate a Panama dalle autorità locali. Sono 30 giovanissimi, tutti incensurati, nulla facenti e nulla tenenti per il fisco, che però giravano in Porsche e facevano la bella vita tra nightclub e belle donne, avendo disponibilità di ingenti somme di denaro. Ora sono in cella con accuse che vanno dall'associazione per delinquere al traffico di cocaina, alle rapine, ai tir. Tra loro anche due militari dell'esercito in servizio a Napoli e a Pordenone. È un colpo di tosse, non fate subito illazioni. 800240024, l'argomento del giorno è la cocaina. Il punto di interesse per partecipare a questa trasmissione è riferire la normalità dell'uso della cocaina nell'entourage delle persone che frequentate, del vostro ambiente lavoro, del vostro ambiente del tempo libero. Quanto ne sentite parlare? Quanto sembra normale? Quanto le persone più insospettabili perché hanno comportamenti apparentemente nella norma, poi sapete che nel momento giusto, nell'occasione giusta, a domanda rispondono, che possono darvi una mano anche a trovare quello che a voi serve, quello che voi chiedete. Andrea Amato, buongiorno. Buongiorno. Andrea Amato è un collega, un giornalista professionista, lavora per la carta stampata, la radio e la televisione. Nel 2010 ha fondato con un gruppo di amici un'agenzia fotogiornalistica, Luz, specializzata in reportage. Ha scritto un libro, L'impero della cocaina, Newton Compton Edizioni. Andrea, innanzitutto ti faccio una domanda. Tu hai fatto un giro lunghissimo seguendo il percorso della cocaina. Secondo te, legata all'attualità, quanto la crisi economica, quanto la stretta, quanto la tracciabilità di ogni nostro minimo esborso che superi i 1000 euro può influire sul mercato della cocaina e sull'uso della cocaina, secondo te, nel nostro paese? In realtà non molto, perché ormai il prezzo della cocaina è da mass market, come direbbero i guru del marketing, nel senso che l'Andrangheta ha adottato una politica 15-20 anni fa di abbassamento dei prezzi per farlo diventare una droga di massa. Ecco, per chi non se ne intende, un minimo necessario per dire faccio qualcosa che non sia burotalco, quanto costa? Ma un grammo di cocaina abbastanza pura si trova sul mercato a 80 euro, ma vengono vendute anche dosi più piccole con taglio maggiore a 15-20 euro, quindi è veramente accessibile a chiunque. Quindi con 20 euro chiunque trova qualcosa per dire ho tirato, ecco, così, che poi alla fine. Volte anche l'aspetto emotivo e l'aspetto di consumo collettivo funziona, dire ce l'ho, così almeno fai il fighetto con una ragazza, ti sembra che c'hai tutto il necessario per passare una serata come si deve. Esatto, c'è da dire una cosa, che la cocaina non è più come era forse una volta la droga dello sballo, della festa e del party, è diventata assolutamente una droga trasversale che va in ogni età, in ogni fascia sociale, quindi troviamo anche casalinghe agee, manager, pensionati, operai che appunto avendo un accesso così facile alla cocaina riescono, purtroppo diventano tossicodipendenti. Non è più la droga dell'elite, dei VIP, del G7. Come tu te lo sarei chiesto, come ti spieghi che ancora mantenga questo alone di scelta esclusiva, di scelta bruciante, al di là, che questa sorta di idea simbolista maledetta? Non c'è nulla di dannunziano e trasgressivo o di eroico nello sniffare cocaina, equivale a prendersi un vergognoso purgante, qualcosa del genere, è una delle tante maniere banalizzate che hanno le persone per risolvere a loro alcuni problemi personali o indotti o reali, non lo so bene. Guarda, la cocaina è una droga prestazionale, in un'epoca, in un momento storico in cui siamo chiamati ad essere i più bravi, i più belli, i più forti, i più veloci, i più intelligenti, la cocaina come droga è perfetta perché dà l'effimera sensazione di essere tutte queste cose, quando in realtà così non è. Però rispetto all'eroina, che era negli anni 70 e 80 completa evasione e dissociazione, la cocaina innanzitutto in una prima fase non dà non lascia dei segni fisici. Sì, l'eroina, ricordo per chi li sono molto più giovani, era la droga del nichilismo. i ragazzi della media buona società, nel nostro paese perlomeno, si bucavano di cocaina per protesta. Diciamo, non c'era famiglia non toccata della media alta borghesia da un figlio eroinomane, è stato il boom delle società di accoglienza, c'era sempre questa sorta di scheletro nell'armadio. Perché? Perché protestava in qualche maniera, poverino, protesta, e si tirava e si faceva appunto di eroina. Invece la cocaina oggi mi sembra che ci sia un consumo trasversale, va dai figli ai genitori anche alle nonne, come mi hai detto. Esatto. Te guarda, sono andato a San Patrignano a presentare il libro, mi hanno ospitato lì ed è impressionante, parlando con chi gestisce adesso la comunità, l'età si è abbassata tantissimo e la forchetta si è allargata, quindi si va dai 16 anni ai 60. E il cocainomane va in comunità? Cioè c'è un percorso di disintossicazione? Sì, sì, sì. Assolutamente sì, il CERT di Milano, che sono appunto i servizi per la tossicodipendenza delle ASL, hanno liste d'attesa a Milano, che è la città insomma, più cocainomane d'Italia, hanno una lista d'attesa di 6 mesi. Milano è la città più cocainomane d'Italia? Sì, vengono vendute, ha stimato la questura, 18.000 dosi al giorno. Ma basta fare un giretto la sera in certe strade, è sotto, esatto, gli occhi di tutti, cioè, esatto. Mi sembra la cosa più è sin troppo banale, perché il commercio e lo spaccio chiaramente è sotto gli occhi di tutti. Andrea da Brescia, buongiorno. Buongiorno, stavo sentendo la trasmissione e avrei voluto intervenire visto che sono toccato direttamente. E allora ci racconti. Praticamente sì, è come si dice, si è proprio allargata la forchetta, tutti possono accedere. Ho visto addirittura, mi era capitato, che mi era stata venduta da un pensionato. Cioè un umarello spacciatore? Sì, è un umarello spacciatore che non apparentemente proprio non sembrava assolutamente, eppure era proprio lui. Addirittura per strada ti cercano. Cioè come faceva a individuare che lei cercava cocaina? Lo vedeva a occhio? Si vede occhio, bene o male, quelli che ci sono proprio dentro, la persona la riconoscono quando uno usa. Però diciamo chi cerca va in certi posti dove naturalmente sa che c'è chi vende. Esattamente, come cioè, si dice, però magari non so se si sa, in stazione a Brescia trovi tutto quello che vuoi. Sì, in parecchie stazioni d'Italia. Diciamo. La stazione ormai è il luogo. Quindi così. Il pensionato con le sue scarpe felpate e la sua sciarpina l'ha accostato e ha detto, ragazzo, vuoi che ce la vendi? No, io ero andato ai tempi alla ricerca e mi avevano indicato quella tal persona. Non ero sicuro, però quando sei lì... Quindi fai dice il pusher è quel vecchietto. Ecco, tu come hai cominciato? Se è possibile raccontarlo? Ma come tutti, mi ricordo, intorno ai 14 anni, prima superiore così, fumavo le sigarette, cominci con la canna, poi dici sempre sì, poi appena quella, poi si passa ad altro, poi ad altro, fino ad arrivare a che sono dovuto andare al CERT. Io adesso sono momentaneamente sotto sono preso in carica a un servizio. Però sei determinato a uscire fuori da questa cosa o sei in un momento così di riflessione? No, diciamo, sì, sono determinato, questo sicuramente, perché anche la mia storia, cioè altri fanno le urine e tutto, sono tutte pulite, quindi la mia storia può confermarlo, diciamo. E la mia determinazione ad uscirne, e poi anche visto ultimamente ho perso alcuni amici in queste cose, e quindi poi tutti, come si può dire, pensano appunto che la cocaina sia come meglio anche dell'eroina, nel senso l'eroina ha tutti la mettono da parte, come dire, la droga non va bene, però la cocaina sì, però chi c'è dentro a un certo punto dice anche che la cocaina è addirittura peggio dell'eroina, perché l'eroina ti dà quella dipendenza fisica e quell'altro, invece la cocaina ti distrugge psicologicamente proprio, a volte quando ci sei proprio dentro che non ce la fai più, diventi un'altra persona. Senti, quanto spendevi a settimana in media per gestirti, diciamo, questo consumo? Ma sono arrivato anche a spendere 2-3 mila euro. E chi te li dava? No, scusa, non settimanalmente. Al mese? Al mese, sì. Ah, come facevi? Lavoravi? Te li procuravi? Sì, a parte lavoravo, sì, però a un certo punto poi inizi anche a cercarli altrimenti, certo. A cercarli altrimenti. No, vabbè, fino a... per mia fortuna non sono mai dovuto ricorrere a furti o cose del genere, però c'è da dire che cominciavi a... Senti, mi confermi, la vendevi a tua volta. Ah, ecco, diventavi piccolo spacciatore per riuscire a procurarti. Senti, ma mi confermi quello che diceva Andrea Amato, che in realtà è diffusa a tutti i livelli? Conoscevi persone di fasce della società o di età insospettabili? Sì, sì, quello sicuramente. Poi è anche una questione della cultura che va avanti, nel senso che, come diceva prima 15-20 anni fa è stato introdotto, come ho sentito, l'Andrangheta, che ha abbassato il prezzo per venderla, quindi già il ventenne del 20 anni fa e il quarantenne di adesso, quindi comunque c'è una cultura che va sempre a introdurre più gente che la usa, più vai avanti più i giovani di adesso sono, mettiamo una percentuale, l'80% che usa, tra 20 anni quell'80% magari sarà il 60%, e comunque sì, oggi vedere gli ex eroinomani degli anni 70, vedi dei vecchietti in effetti. Grazie Andrea da Brescia, abbiamo sentito. Fernando, buongiorno. Buongiorno. Fernando, lei è un colombiano? Sì, sono un colombiano, abito qua a Milano da 13 anni, ho fatto alla Colombia, ho fatto il poliziotto antidroga. Allora più o meno conosco quel giro di vita che si fa con quello lì. E, allora niente, qua nel momento che io faccio il camionista, quando la gente sa, mi chiede, di dove sei? Colombia. Mafia, però sempre c'è uno o due che mi chiedono, mi può portare qualcosa? Guarda che io con quello lì, Niente da fare, perché conosco cosa si fa, come si fa, allora io sono qua per lavorare, allora, no, niente, io con quello no voglio niente, però tutti, nel momento che sanno che sono della Colombia... Subito pensano che essendo colombiano è un facile dispensatore. Sì, subito mi chiedono, Oscar, portami qualcosa... No, niente. Allora fermiamoci solo un istante. Andrea Amato, ti ho fatto ascoltare qualche testimonianza che è arrivata immediatamente all'impronta, soprattutto l'ex poliziotto colombiano, oggi camionista, che solo per il fatto sia colombiano chiedono tutti cocaina, mi sembra già significativo. Tu hai fatto un giro molto lungo, mi racconti un po' quello che è interessante capire e sapere sul percorso della cocaina quando arriva in Italia? Guarda, io sono partito dalla Colombia, appunto, abbiamo seguito quella che è la foglia di coca coltivata nella foresta, nella giungla colombiana, che poi viene raffinata, diventa da narcos, diventa cocaina e poi prende il mare in direzione America, Stati Uniti o Europa attraverso navi, aerei, e poi entra in Europa, nei nostri paesi, in Italia, o via mare attraverso navi o via aerei con aerei privati, oppure in tantissimi altri modi, anche a volte veramente geniali, quindi nascosti dentro i container di frutta congelata, piuttosto che nelle latte di tonno, oppure sciolta nel liquido da scarpe o nel rum. Diciamo c'è una grande fantasia, sì. C'è una grande fantasia, sì, sì. Parlando con Piero Grasso, il procuratore nazionale antimafia, appunto, diceva che l'Andrangheta, che soprattutto detiene il 60% del traffico mondiale, ha a sua disposizione chimici e scienziati che gli stati e le polizie del mondo si sognano a volte. Cioè, è una continua rincorsa. Il problema è che loro viaggiano in Ferrari e le polizie, soprattutto la polizia italiana, con una 500 senza benzina, più delle volte perché non ci sono i fondi per pagare neanche appunto la benzina. Nicola Gratteri, il falcone dell'Andrangheta, diciamo, molte volte deve viaggiare per fare interrogatori in giro per il mondo e si paga il biglietto da solo, insomma, questa è un po' la lotta impari alla criminalità organizzata. Senti, sentiamo un attimo, Fernando, ancora in linea? Sì, sono Fernando, qua. C'è qualcosa da aggiungere rispetto a quello che dice Andrea Amato? Tu che hai fatto il poliziotto in cocaina, sui metodi per trasportare cocaina, ne ho lette di tutti i colori, bambini morti rimpinzati di cocaina, ovuli che si ingeriscono e via dicendo. Quello che sta dicendo lui è vero. Dopo che, o sea, la cocaina per trasportarla qua a Europa cercano tutti i metodi, tutti. Loro non se ne frega niente portarla ovunque. Oppure da tempo fa abbiamo peccato, in quel momento sono stato io, abbiamo peccato un bambino morto che lo hanno riempito di cocaina sulla pancia e lo stavano trasportando facendolo finta come se il bambino fosse vivo. E io pensavo fosse una leggenda questa, l'ho citata come un aspetto leggendario, tu mi confermi che invece è una realtà? È realtà, è vero. Cioè il bambino morto farcito per... Lì utilizzano la gente più povera, la gente che non ha da mangiare, va, le offrono una casa, le offrono tante cose e la fanno viaggiare e a loro se le frega proprio che lo pecche la polizia, perché dopo se che entra in galera lo abbandonano proprio, non hanno niente da fare. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé. L'Italia è uno dei paesi europei in cui si consuma più cocaina. Siamo in grado di calcolare il quantitativo di cocaina utilizzato dalla popolazione milanese quando analizziamo le acque del depuratore di Milano Nosedo. Consumo che è circa di un chilo al giorno, che il sabato e la domenica diventa un chilo e mezzo. In natura, la foglia di coca non è niente di più che uno stimolante naturale. Non provoca alcun pericoloso effetto collaterale. Ma questo dato di fatto cambiò quando nel 1850 i segreti della foglia di coca suscitarono l'attenzione di un medico italiano. La persona che fece conoscere la cocaina all'Europa si chiamava Paolo Mantegazza. Era un neurologo italiano. 800240024, Mantegazza aveva altri intenti, altre idee. Pensava a un ricostituente, pensava a qualcosa che facesse bene, fortificasse. Poi da ogni buon proposito naturalmente possono prendere derive imprevedibili. 800240024, stamattina parliamo di cocaina. Se qualcuno vuole dare un'occhiata a un video veramente scioccante, vada nel profilo Facebook mio, o personale o pubblico. Ho linkato un video da YouTube realizzato dal Dipartimento Politica Antidroga della Presidenza del Consiglio e dal Ministero della Salute, che mi sorprendono per la loro lungimiranza. Hanno fatto vedere una serie di personaggi, cocainomani persi, con i volti deturpati, per vedere cosa succede veramente agli stadi ultimi. Beh, avete presente Voldemort di Harry Potter, il cattivo senza naso, ecco, una cosa terrificante. Lo smembramento delle cartilagini, si buca il naso, è una cosa bruttissima, è esattamente l'opposto dell'immagine di attivismo, di splendore, di sensualità, di efficienza che dà la vulgata rispetto all'uso della cocaina. Siamo collegati con Andrea Amato, che è un collega, un giornalista, autore dell'Impero della cocaina, Newton Compton Edizioni. Ci eravamo interrotti con Andrea, ci sta raccontando come ha iniziato questo giro partendo appunto dalla Colombia, il luogo per eccellenza, deputato alla produzione e al commercio a cocaina, e arrivando fino appunto alle nostre contrade. Andrea. Sì, buongiorno. La Colombia è il luogo deputato perché la pianta di coca cresce solamente in tre paesi, Bolivia, Perù e Colombia, e per il 65% nella giungla colombiana, quindi solo lì si può coltivare ed è, come la chiamano loro, una yerba mala, cioè dove la butti cresce senza bisogno di particolari cure, quindi anche questo qua complica molto la battaglia, il contrasto della produzione. E gli americani dal 1999, con il Plan Columbia voluto da Bill Clinton, hanno investito qualche miliardo di dollari con scarsi risultati, anzi dal 99 oggi è decuplicato il consumo di cocaina nel mondo, e per fermare ogni chilo di cocaina vengono spesi più o meno $11,000. Considerando che su ogni chilo che viene fermato se ne stimano altri 10 trafficati con molta tranquillità. Quindi sembra un'operazione simile a vuotare il mare con un cucchiaino. Esatto. I dati che ho io, che addirittura sembra che ne circoli più di quanta si immagina che se ne produca, quindi evidentemente sono altri luoghi. Io avevo letto, però non ricordo bene esattamente i termini, che ci sono delle sperimentazioni di coltivazione anche alle nostre latitudini, pare che in Calabria da alcune parti stiano provando a coltivarla anche da noi. È possibile secondo te, da quello che sono i tuoi dati? Al momento no, ci stanno facendo degli esperimenti. Ci stanno lavorando, ecco. Esatto, ci stanno lavorando. Il problema è il controllo del territorio, che in Calabria sarebbe complicato passare inosservati. Però ci stanno lavorando evidentemente per abbattere tutti i costi e i rischi di trasporto. Consideriamo che però l'Andrangheta appunto controlla il 60% del traffico mondiale e controlla anche l'estero su estero, cioè manda carichi di cocaina dalla Colombia direttamente all'Australia, per dire, dove ha delle centrali, delle endrine, quindi è veramente una piovra che rispetto a quello che era Cosa Nostra è molto più efficiente, molto più strutturata e ormai anche molto più ricca. Diciamo che ha un giro d'affari di 40 miliardi di euro, l'equivalente del fatturato di Fiat Mondo. Il problema è tutto in nero, tutto soldi sporchi, tutto sommerso, quindi i problemi dell'economia mondiale, soprattutto di quella italiana, vengono falsati anche da questa cosa, da questo dato impressionante, perché poi loro immettono questa quantità di denaro sporco nella nostra economia, sballando completamente tutto, dalla concorrenza leale a quella che è la finanza. Un flusso di denaro impressionante, impossibile da immaginare e da concepire. Tanto di questo denaro liquido che comunque viene immesso e comunque in qualche maniera deve essere reimpiegato, riutilizzato, investito, e quindi naturalmente, come tu dici, questo falsa tutti i parametri. Quando io ho tonnellate di denaro liquido da investire, è chiaro che posso fare delle operazioni molto spregiudicate rispetto a chi in realtà deve considerare il valore reale delle cose, degli oggetti, del denaro. Marco, buongiorno. Buongiorno. Salve, io chiamo da Cortina d'Ampezzo. Volevo semplicemente... Fortunati, siete no. il set del nuovo cinepanettone di Christian De Sica. Infatti, è stato finito qualche settimana fa. Io mi occupo di musica, lavoro nei locali e spiego questa cosa che mi è successa. Già... A Cortina, molto, proprio però... a Cortina, al locale? No, ad Ancona. Sì, ma Cortina mi sembra sia piuttosto su di età il pubblico medio. Sì. La sera va a letto con la minestrina presto. Sì. No, io per fortuna mi muovo per lavoro, quindi. Però qui sì. Le dico cosa mi è successo. Io mi occupo di musica, lavoro nelle discoteche. Vado ad Ancona, esco dal locale alle 4 di mattina e mi trovo una ragazzina molto magra, 18 anni, con una sorellina, 16 anni, fuori dal locale nel parcheggio. Carico i dischi e gli chiedo: ma cosa state facendo, cosa aspettate, cosa c'è? Stiamo aspettando mio padre che viene a riprenderci. Ho detto: ma fino a quest'ora rimanete nel locale? E la ragazzina più grande mi fa: sì, perché purtroppo il sabato sera a casa mia ci sono le feste di cocaina. I miei genitori sono fulminati da anni, 45 anni tutti e due, e io cerco di salvare mia sorellina da questa cosa qua. E la porta in discoteca, naturalmente. Mi ha fatto un dolore pazzesco. Proprio era figurativa la cosa. Immaginavo proprio i genitori lì fulminati. Sì, immagino il bunga bunga domestico fatto fra geometri e casalinghe, con la coca. La figlia schifata che cerca di sottrarre la sorellina a questa visione, perché fa la cocaina a casa e dappertutto. Madonna, che schifezza. E l'ha finita così, poi lei se n'è andato e l'ha lasciato. No, poi è arrivata dell'altra gente, il proprietario del locale, non so poi come è andata a finire. Io avevo 500 chilometri a fare, quindi pian piano sono rientrata, però mi ha schifato proprio la cosa. Ma io penso è abbastanza diffuso, da come ci diceva appunto Andrea Matos, è così capillarmente inserita nella società italiana, guardiamoci intorno, è chiaro, ci saranno molte famiglie con figli minorenni, con figli piccoli, che hanno questo passatempo serale, quindi non è che, come accadeva nelle antiche famiglie, prenditi il biglietto, vai al cinema, che così lasci un po' in pace papà e mamma il sabato sera, ma in realtà è qualcosa di diverso e di più esteso. Alex Gaudino, un altro DJ, noto DJ, buongiorno. Buongiorno a lei. È d'accordo con quello che dice il suo collega? Vabbè, il connubio discoteche, musica, droga in generale è una cosa abbastanza... È logico. È storica, no? È abbastanza storica, documentata, quindi ci sono cantanti famosi morti per questo recentemente. Anche altri vivi che hanno una anche vivi, un'impietosa vecchiaia, però diciamo così... Ma io volevo puntare però l'attenzione su un altro aspetto, che è quello di cui parlava Andrea un poco prima. Io ho letto il suo libro, ho letto anche un altro libro, prima di leggere il suo, che si chiama Metastasi, che mi ha molto informato sul fenomeno, ma soprattutto su quelli che sono i costi, su quello che è il valore di questo mercato. Perché come parlava lui, come diceva lui prima, parliamo di miliardi di euro. Miliardi di euro che più valgono al fatturato di un'azienda come la Fiat, ma che più valgono soprattutto a non farci pagare tantissime tasse a noi che lavoriamo, se queste droghe venissero legalizzate. Ora io sto affrontando un argomento un attimino un po' più largo. Però, dici legalizzandole. Però pensiamo a questo fatto, questo connubio politica-mafie che è evidente, che è larghissimo e che è ovviamente dimostrabile, che ci fa rimanere indietro a livello tecnologico, perché abbiamo detto che le nostre polizie vanno in 500 senza benzina, questi viaggiano in Ferrari. Guarda, ti dico subito, non ho un problema di tipo teorico-morale per dire, Dio mio, che cosa orribile. È che se ancora non l'hanno fatto in tanti altri paesi che avranno affrontato senz'altro il problema, secondo me non risolverebbe economicamente il problema. Certo, però posso permettermi di dire che in alcuni paesi si sono permessi di legalizzare perlomeno le droghe leggere e la prostituzione, per esempio, che è un altro argomento. Infatti c'è la transumanza di italiani in Olanda che fanno paura. E pagano le tasse, cioè, voglio dire, ci sono delle situazioni dove grazie a queste entrate che non sono l'industria, il turismo, il commercio, ma sono delle cose per cui tutti quanti noi hanno una certa repulsione, forse, apparente perlomeno, voglio dire, costituiscono una fonte di guadagno per lo Stato molto molto grossa. Sì, oggi si stanno tutti interrogando sul sommerso, l'ICI non pagata dai preti, non pagata dai sindacati, ma diciamo, se il gettito di denaro che i puttanieri italiani lasciano sulle strade ogni giorno diventasse a beneficio pubblico e comune, probabilmente qualche problema sarà risolto, ma come vedi, quando parliamo di queste cose non ci si riesce a uscire dall'ambito della faccezza. Sai, è già difficile far tagliare adesso ai parlamentari i loro già ricchi emolumenti. Pensa, se si potesse mai pensare, si alzerebbero degli scudi, di tassare anche la prostituzione italiana, o perlomeno i soldi che gli italiani gettano in questa attività potrebbero benissimo fatturarli, o perlomeno uscire dalla clandestinità, e ne girano tanti. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. La cocaina è la droga degli sfigati. Mi hanno fatto molta pena oggi i miei colleghi, madre di famiglia, padre di famiglia, tutti, diciamo, hanno provato o usano saltuariamente questa sostanza e cercavano di autogiustificarsi oppure di giustificarsi l'uno con l'altro dicendo che era sbagliato il messaggio che aveva dato la trasmissione e che provarla una volta ogni tanto, una volta all'anno, a Capodanno, al compleanno, non è da pirla. Ieri ho trovato un'altra cosa in una tabaccheria di Catania, un set per cocainomane. Sembra incredibile, ma era veramente così: una boccettina di vetro, una paletta per estrarre la polvere, una lametta per tagliarla e una cannula per sniffarla. La tabaccheria si trova a Catania. 800240024, stiamo parlando di cocaina con Andrea Mauto, autore dell'Impero della Cocaina, Newton Compton Edizioni. Cosa ne dice Andrea della proposta c'è al DJ? Mi sembra un po' fuori, diciamo, delle possibilità più, almeno più prossime di soluzione. La liberalizzazione della cocaina mi sembra un passo un po' azzardato, qua non si parla di un po' di fumo o di altre cose, è una cosa un po' pesante, o sbaglio? Sì, guarda, anch'io non ho preconcetti morali di sorta, e che poi andando nei CERT, frequentando i CERT o le comunità di recupero, ecco, pensare di risolvere il problema dal punto di vista delle tasse e della legalizzazione dal punto di vista economico, senza pensare a quelli che poi sono che l'incidenza sulla salute e sulla società diventa un po' problematico, non è così. Non è vendendola in farmacia che si risolverebbe il problema. No, perché se c'è un problema economico ce n'è un altro ovviamente sociale e ben più grave, se vogliamo. Ci sarebbero altre cose da fare, altri interventi da fare. Gratteri, appunto, il procuratore di Palermo e di Reggio Calabria, dice che cambiando 4-5 articoli del codice penale si riuscirebbe a dare una grossa botta alla criminalità organizzata. Se la comunità internazionale mettesse al bando i paradisi fiscali, gli stati offshore, probabilmente anche lì si riuscirebbe a risolvere qualcosa, perché attraverso questi paradisi fiscali le mafie di tutto il mondo riescono a far girare questa quantità impressionante di soldi senza problemi. Cioè agire sulla possibilità di bloccare l'affare, non diventa più vantaggioso avere, esatto. Sì, mi sembra anche questo quello, molto difficile. Sì, Obama aveva in cima all'agenda del suo programma del primo mandato questa cosa qua, cioè di mettere nella blacklist tutti i paradisi fiscali. Non se ne è fatto più niente, ma non c'è la volontà, perché oltre all'andrangheta il paradiso fiscale ci vanno un po' tutti, è chiaro. Sì, serve anche al piccolo imprenditore che c'ha un po' di nero da far girare, quindi non si guarda al macro problema come al solito, ma sempre al micro. E insomma, pensare che in un momento di crisi come questo ci siano aziende medie, piccole o anche grandi in difficoltà, e pensare che ci sono mafiosi con la valigetta piena di soldi pronte a rilevare quote di queste società in difficoltà, mette paura, perché vuol dire che la mafia sta entrando nel tessuto sociale ed economico italiano dalla porta principale. Non sono più quelli con la coppola sulla spromonte e con i soldi nascosti sottoterra che puzzano di muffa, questa è un'intercettazione telefonica tra mafiosi, ma sono nei consigli di amministrazione di aziende magari con 30-40 anni di storia. Questo è il problema e l'emergenza di oggi, solo che non c'è la volontà, ma neanche politica, di mettere la lotta reale alla mafia in cima all'agenda. Sì, mi rendo conto, ne parliamo oggi, ma come se fosse un argomento al di fuori di ogni agenda, di ogni attualità, così come se non avessimo nulla di meglio da dire, parliamo di cocaina, quando in realtà non è che il problema sia mai stato risolto, anzi. Giovanna, buongiorno. Buongiorno. Anche lei boliviana? Sì, boliviana. E senta, quindi? Quindi io volevo, quello che io penso, no? Che per eradicare questa diffusione della cocaina, perché la cocaina si vende di più nei paesi ricchi, come essere l'Europa, Stati Uniti, no? E allora, come da noi viene? Da quasi, possiamo dire, il 100% da Sud America, no? Allora, la maniera per me per eradicare tutto questo traffico sarebbe eradicare la pianta. Io mi rendo conto di quello che sto dicendo. Lei l'ha mai vista la pianta? Sì, l'ho vista, anche l'ho assaggiata. Anche coltivata? No, coltivata no, perché mio padre, io abito al sud di Bolivia, quindi di là non si coltiva. Ma avete un orticello dove... Eh, No, no, lo sa che questa pianta solamente cresce e si coltiva nel centro della Bolivia. Però dove l'ha vista lei invece? L'ho vista nei mercati che la vendono, non la vendono secca, no? Arriva secca perché la masticano i lavoratori che lavorano costruendo le case. Però ancora non è cocaina, è la foglia masticata. No, no, no, però a conseguenza di questa foglia diventa cocaina. Lei l'ha masticata la foglia? Una volta sì, perché mio padre la mastica, è successo che dentro la mia bocca l'ho sentita, come se mi avessero messo l'anestesia, quando me lo mette il dentista l'anestesia, così sentivo, e pure la testa un po' andavo fuori. Grazie Giovanna, la saluto, grazie Andrea Amato che ci ha dato così importanti letture dal punto di vista pratico e concreto questo fenomeno. Mi piace concludere con la nostra ascoltatrice boliviana che ha ciancicato in gioventù la foglia.